Buonasera Drupi, come stai? Tutto bene, tutto bene, tranquillo, bene. Regolare. Era tempo che avevamo l'idea di intervistarti e finalmente siamo riusciti a fare tutto. È una cosa, cioè, io no, per una certa generazione come la mia, tu sei stato un personaggio importantissimo, secondo me. Va bene. Hai cominciato con il blues. Hai sempre amato il blues. Sì. È così, Drupi? Sì, ho iniziato con i Beatles, perché allora non c'era nessun gruppo ragazzino che non iniziasse con i Beatles. Poi mi ricordo un anno o due dopo, entrando in un negozio di dischi, allora esistevano ancora i negozi di dischi. Esatto. E ho sentito per la prima volta una voce bellissima, una musica straordinaria, era Ray Charles. E da lì mi sono innamorato, poi ho scoperto Otis Redding, Aretha Franklin, insomma un po' tutto quel mondo. E non mi ha più abbandonato. Tu suonavi un gruppo, si chiamava Le Calamite, è così? Sì, il primo gruppo si chiamava Le Calamite. E d'estate e d'inverno lavoravi per praticamente costruirti le tournée estive, o no? Sì, no, ma loro non si facevano tournée, si suonava un po' in provincia, un po' da queste parti, perché poi la mattina bisognava andare a lavorare. L'idraulico era dura in quel periodo. Esattamente, molto dura. E come mai è stato questo incontro con Riccardi e Albertelli? Per caso, sempre in una balera di sì, Pavia, perché, un locale? No, nel frattempo, dopo un paio d'anni, eravamo diventati abbastanza famosi nel giro della provincia, insomma, sapevano tutti cose e come suonavamo. E probabilmente si era sparsa un po' la voce, allora le case discografiche mandavano in giro poi il produttore a vedere cosa c'era di nuovo in giro. E venne convocato dalla Ricordi, tanto si può dire non esiste più. Certo, esatto. E niente, mi chiesero di fare qualche provino. Andò tutto bene, salvo che poi non succedeva niente, insomma. E stava tutto là fermo. Fin quando, aspetta, ah, no, niente. Fin quando una carissima amica cantante che doveva andare a Sanremo decise 10 o 15 giorni prima di non andare, che non gliene fregava niente di Sanremo, non ne voleva sapere parlare, sentire, insomma. E vabbè, era Mia Martini, e allora la Ricordi non aveva nessuno da mandare, e diciamo mandiamo questo qua. Non vado via, e 9 milioni di dischi. Appunto, come alla faccia di questo qua. Esattamente, alla pensa che è arrivato ultimo e ha fatto 9 milioni di copie. Sì. Una cosa straordinaria. Come mai secondo te, Drupi? Boh, probabilmente si era creata quella magia tra pezzo, voce, arrangiamento. Sai, sono quelle cose che non riesci a spiegare. Non esiste, per fortuna, la formula per il successo. Anche l'arrangiamento era interessante, la tua voce tutto, particolare, sì, tutto, eccetera. Tutto particolare. Esattamente, 9 milioni di copie. Di quelli che dicevano che mi portava sfiga, insomma. Ah, esatto, purtroppo non è assolutamente vero, ma è sempre stato così. Sì. 9 milioni di copie, un tantà incredibile, ecco, si sono aperti tutti i mercati per te con Vado Via, Drupi? Sì, in pratica da quel giorno, perché arrivai ultimo. Sì, saremmo sì arrivasti ultimo, però... E allora per i primi 6 mesi non successe niente, in pratica stavo quasi per essere abbandonato, se non che dalla Francia arrivò una telefonata di una ragazza che faceva la promoter alla RCA, mi disse: senti, a me questo disco piace, verresti qua a fare qualche televisione? E perché no, almeno vedo Parigi. Giusto. E da lì scoppiò tutto, niente, di colpo, boom, basta. E da quel momento... Tranne quando decido io di smettere di allontanarmi un po', è stato tutto un rincorrere, una velocità, posti. Però quanti artisti non sono stati capiti in Italia, sono stati più capiti all'estero? Che brutta sta cosa però. Ma non lo so, credo, ma non è che qua non mi abbiano capito. Allora, sai, Sanremo... La televisione c'era solo l'ultima sera, io essendo stato mandato via subito alla prima sera, nessuno ebbe l'opportunità di sentire né di vedere chi fossi, insomma, allora venne tutto abbandonato. Poi In quel periodo la radio trasmetteva principalmente le canzoni o che avevano vinto o che insomma erano entrate nella serata finale. Perciò Gioco Forza venne un po' abbandonato. Però grazie alla Francia, come tu hai detto. Sì, poi nacque tutto in Francia. Esattamente. Allora, sentiamo questo pezzo favoloso, 1973, vado via, Drupi. Sì. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Su Blu Radio Sera abbiamo appena iniziato a chiacchierare con Drupi. Maurizio. Sì, un pezzo Drupi del 73, ma ancora si ascolta con molto piacere, secondo me. Cosa dici? Bene, le canzoni quando sono belle rimangono. Esatto, rimangono. Non ci sono storie. Poi credo che in quel periodo, dagli anni 70 agli anni 80, massimo 83-84, sia stata fatta la musica migliore. Concordo, poi concordo. La prima rock con Elvis e questo, certo, ovviamente, certo. Questa è un'altra storia. Ma per l'Italia credo che tra il 65 e l'80 qualcosa sia stato fatto tutto quello che di meglio c'è. Certamente. Come si fa a suonare con Paul McCartney e Tom Jones, Drupi? No, non ho suonato. Hai partecipato a degli show assieme a loro. No, sono stato invitato quando eravamo in classifica con Vadovia in Inghilterra, ho fatto una trasmissione dove era Top of the Pops. Certo. Che noi eravamo in classifica, mi sembra, al settimo o ottavo posto e Paul McCartney nei primi tre o quattro. Ho cantato nella stessa trasmissione, c'era lui e tutto, però non ho cantato con lui, purtroppo. In ogni caso è una grandissima soddisfazione. Pochi artisti italiani sono riusciti a scalare il classifico inglese, Drupi. Sì, credo non molti. Esattamente, si possono contare sulle dita di una mano. Assolutamente no, in quel periodo che aveva venduto dischi all'estero c'era stato solo Domenico Modugno. È vero. E poi sì, qualcuno che andava per gli emigranti e via, ma un successo internazionale vero, non solo per gli italiani ma per tutti, credo che l'abbiamo fatto noi con Vadovia. Certo. Siamo stati anche in classifica in America, insomma è successo un patatrac tremendo. Ma come si fa ad avere tanto successo internazionale, Drupi? Tu che vai spesso all'estero e suoni sempre davanti a platee molto vaste. E questo non te lo so dire, magari lo sapessi. Ci vuole una bella dose di professionalità, di serietà e via, ma anche un lato B enorme, secondo me. Però poi è rimanerci dove ci vuole proprio una testa dura e la voglia e amare insomma la musica. Sì, la testa dura, cioè nel senso positivo del termine. Tu sei sempre stato un artista atipico che hai sempre portato avanti un tuo discorso personale, secondo me. Sì. Io vedo adesso che sono innamorati quelli cantati nuovi, salvo qualche rara eccezione che comunque c'è, sono innamorati del successo, non tanto della musica, ma il successo, apparire, far successo. E invece forse la mia particolarità è che amo la musica, poi quasi quasi il successo mi dà un po' fastidio, addirittura. È venuto di seconda, insomma, praticamente. Sì. Domanda abusatissima, ma questi cantanti usciti dai reality, chiamiamoli insomma reality, ecco. Allora, tecnicamente sono di una bravura che, insomma, rimani lì da ammirare perché sono molto bravi. Anima zero e... Sì, perché li preparano come delle macchine, dei robot, non hanno il tempo di vivere certe esperienze che ti daranno e che ti danno poi nella voce, nel modo di cantare un'anima che così all'improvviso non ti può venire. Può essere un paragone come il lavoro di un artigiano è quello che ti fa una macchina. Sì, te lo fa perfetto, però più o meno così. Sì. Io porto sempre paragoni che in un reality Battisti sarebbe stato mandato fuori a calci in culo. Sicuramente. Di Vasco, di Ligabue, questi qua. Poi come trasmissione sono fatte benissimo. Sono una delle poche opportunità ancora che hanno i giovani per uscire, questo sì. Però le vedo come una fabbrica di disoccupati. Sì, perché allora sappiamo tutti che il disco è in crisi, assolutamente. Allora l'unico modo, cioè la parte più costosa nel fare un disco, nel promuovere un cantante, è la promozione. Loro le etichette se la ritrovano di fatta, gratis, fanno questa operazione. Poi il secondo disco bisognerebbe investire soldi. Ma non gli importa niente, allora intanto hanno l'altro reality che arriva l'anno dopo dove avranno un altro vincitore a gratis e loro mollano questi ragazzi. E auguri. Hai capito? Allora si ritrovano illusi e magari qualcuno si rovina anche. Sì. Tante meteore che poi spariscono, vero? Sì, non perché sono meteore che non valgono, questo non lo sapremo mai perché non hanno la possibilità di far vedere quanto valgono. È che l'anno dopo, perché devo andare a spendere 300.000 euro per promuovere un disco quando prendo chi esce dal vincitore del prossimo reality e ce l'ho gratis la promozione? Chiaramente. Questo è non fa una piega. Purtroppo è così. E questi, che ne so, magari avevano opportunità di fare qualcos'altro nella vita e si ritrovano a diventare nel giro di 2 mesi famosissimi, senza nessuna base, né esperienza, né niente. E poi vengono mollati e si sentono traditi, vanno in crisi, secondo me. Tanti, non credo tutti, ma tanti sì. Certo, si staremo a vedere. Dalle stelle alle stalle nel giro di 6 mesi. Sì, no? sì. Ci sono pochissimi che riescono ad andare avanti. E lo vedi anche nei rapporti fra loro. Io ho avuto opportunità di essere in un retroparco dove c'erano 2 o 3 di loro, non chiedermi il nome che non te lo dirò mai. E si odiano. Cioè, competizione questa, a mille. Questa competizione con cui vengono allevati se la portano sempre addosso. Io mi ricordo che insomma i cantanti nuovi, quali eravamo noi, io mi ricordo una sera dietro il palco di Sanremo, io, Vasco, Mimì, che cavolo c'è da odiarsi, anzi. Questi invece non si possono sopportare fra loro, questa competizione gli ha rovinato il cervello. Spero che non tutti siano così, ma quello che ho visto io sì. Perché vengono addestrati a quello, insomma, muori tu, vinco io. Certo, è quello il discorso. E tutto questo sempre nell'ambito del non amare la musica, mai il successo. Chiaro. C'è un pezzo che noi abbiamo particolarmente, soprattutto Sergio, che mi ha citato mentre il pezzo andava, Sereno sì. È stato un successo dopo Vado Via. Come mai questo? Hai cambiato, leggermente cambiato secondo me, Dupi. Cosa dici? Sì, avevamo fatto 2 pezzi con una grossa matrice blues che era Vado Via, che è proprio blues. Sì, è 100%. Poi come secondo singolo avevamo fatto, che ebbe la forza di portarmi in classifica in Italia, che era Rimane, anche lui molto sì. Blues, molto vocale, molto tecnico. E quando mi proposero Sereno non lo volevo fare, un giro di do, ma dai, ma scherziamo, non canto queste cose. E salvo poi leggendo il testo, ascoltandomelo a casa, ho detto, però è carino, dai, facciamolo, ma lo cantai quasi per gioco, insomma. Invece è una di quelle canzoni che riesce a toccare la sensibilità delle persone. È che la gente ti chiede spesso e volentieri, non è così? Sì, beh, se in uno dei miei concerti non lo faccio, mi bruciano vivo. Bene. Ok, lo sentiamo assieme allora. Blu Radio Sera. Thank you. pensieri miei. Giù nel buio la conferma che lassù in alto sempre tu ci sei, che alla luce aspetti me. Sereno dare un calcio ai grattacapi e poi con un bacio fare pace noi e sentirmi come tu mi vuoi, raccontarti un sacco di bugie per poi ridere di te. Blu Radio. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. In Blu Radio Veneto ogni sera c'è lo spazio che noi chiamiamo Blu Radio Sera e al martedì ci dedichiamo alle chiacchiere con qualche artista. Questa sera con Drupi, a te Maurizio. Ci sarà anche un semplice giro di do, Drupi, però che bello giro di do. E poi tu la voce, vai su, vai su, vai su. Sì, beh, questa versione è il re, devo dire. Sì, esatto. No, comunque, vabbè. Insomma. No, bello, devo dire, cioè è bello, cioè, le cose sono belle e rimangono belle, sì, indipendentemente dall'età. Sono convintissimo. E una cosa, abbiamo parlato di tournée, che ne fai tante. Cosa ti chiedono di più, oltre il Sereno, quando suoni davanti a platee molto grandi, e non solo in Italia, soprattutto nei paesi stranieri, nell'est europeo? No, ma non è solo nell'est europeo. L'est europeo, non so come mai i media italiani parlano di quello, ma la stessa cosa succede in Germania, in Francia, insomma, giro. Adesso, però 200.000 persone le hai avute solamente, cioè 100.000 persone a Mosca le hai avute? No, beh, questo l'ho avuto a Mosca, ma non dico 100.000, ma altrettante erano in Canada, al Maple Leaf Garden, che credo bellissimo, sia uno dei, o era uno dei posti al scoperto che conteneva più alto numero di persone, credo che erano 50-60 mila, non lo so, adesso non mi ricordo bene, ma in diversi posti le abbiamo fatte, insomma. La cosa meravigliosa, secondo me, cosa dici? Sì, ma bellissimo, mi diverto come un cane io, quando vedo, perché l'essenza poi del musicista, del cantante, è lo spettacolo live, tutto il resto, almeno per come la vedo io, è un po' una rottura di palle che bisogna fare, per l'amor di Dio, adesso sono diventato un po' più esigente, perciò in televisione se posso evito, a meno che non siano spettacoli dove si fa della musica dal vivo davvero e che non siano reality o migliori settimane, migliori anni. Però tu giustamente hai sempre scelto determinati show particolari perché bisognava suonare dal vivo, cioè live è l'essenza di tutto, c'è niente da fare. Esatto, e purtroppo invece anche l'anno scorso ho visitato 2-3 televisioni perché vai vieni che vengo volentieri, allora porto il mio gruppo, ma no, ma troppa roba, è un casino montare i microfoni, gli amplificatori. Vabbè, allora cantate voi, come chiedere a un muratore viene a fare un muro ma fai finta di farlo. È la stessa cosa, ma purtroppo la musica è diventata così. Ma in Italia succede questa roba, all'estero non penso succeda così, oppure no, succede no, anche all'estero? Hanno intanto delle trasmissioni musicali che qua non esistono più, certo hanno anche lì i loro X Factor, hanno i loro reality, ma c'erano delle trasmissioni musicali molto belle. E quando ti invitano, sarà perché sei straniero, non lo so, quando ti invitano quello che vuoi ti danno, altrimenti non ti chiamano. E allora lì vengono fuori le performance più belle, insomma. Ho fatto due anni fa in Polonia, abbiamo fatto un equivalente del Festival di Sanremo, no? Sì. Dopo Come ospiti musicali eravamo una sera io e una sera Elton John, con un'orchestra incredibile, e lì è stato bello, insomma, è stato magnifico perché c'erano un'orchestra di 60-70 elementi, tutti giovani, bravi, il maestro era un ragazzo di 30 anni, con computer, è stato davvero bello. E il feeling arriva subito, Drupi, con questa gente? Eh sì, ma vedi, se tu vai a vedere lo spettacolo, penso di chiunque, insomma, ma soprattutto nei miei, tu dici, oh la Madonna, ma io non sapevo che suonassi così, arrivo con delle apparecchiature, delle cose, insomma, è un concertone fatto bene. E poi ti chiamano in televisione, ti danno una chitarrina stonata, oppure no, ma facciamo... quando va bene con la base, altrimenti è completo, così non hanno problemi di mixaggio, via. Capisco, hanno i loro tempi televisivi, però la musica viene tarpata, insomma. Certo. Però come si fa a suonare in Piazza dell'Orologio mentre solo i Rolling Stones hanno avuto questo grande onore? Sì, hanno dato solo a loro e a noi per un concerto singolo. Poi se vai sotto Natale ci sono due o tre palchi con i ragazzi che suonano, oppure i violinisti dall'altra parte, insomma quelle cose un po' folcloristiche, ma un palco centrale dove si fa solo uno spettacolo, è andato solo le Rolling a me. È una cosa meravigliosa, dai. Sì. Un grande onore, secondo me, e un grande orgoglio come musicista. Alla grande. Chiaramente. Soprattutto poi sono quelle serate che ti gasano e loro improvvisi, parti, cambi la scaletta... Cioè, nasce dalla musica vera. La scaletta di Drupi, com'è la scaletta dei Drupi? Ah, no, non esiste. Ah, non esiste. Perché è il dramma dei miei fonici, dei miei musicisti, che devono stare lì con le antenne sfoderate perché non sanno mai dove, come e quando vado a parare su questa o su quell'altra canzone, non lo sanno mai. E sei come Bob Dylan, praticamente. Magari. No, anche lui no. Loro non sanno mai dove va a parare Dylan, cioè cambia immediatamente in qualsiasi momento. Ma perché io credo che sia così, tu non puoi, fare un concerto il 3 gennaio nella piazza di Vienna e avere un certo tipo di scaletta di pubblico, poi il 15 agosto in Sicilia, come puoi pensare che sia la stessa atmosfera, la stessa persona, lo stesso pubblico? Giusto. Io guardo la gente, la seguo, capito? Giustissimo, hai detto una cosa giustissima. Ogni posto ha la sua atmosfera, la sua cosa, ma no, parto con questo, poi finisco con quello, ma diventerebbe poi una noia tremenda. Certo, però è una cosa molto importante, andare all'estero e suonare in italiano praticamente, i tuoi pezzi. Sì, io ho provato due o tre volte, mi ricordo una volta abbiamo fatto una versione spagnola, credo di Piccole Fragile, e arrivò sul 20° posto della classifica. Quando pubblicarono Piccole Fragili in italiano arrivò prima. Vedi? Hai citato Piccole Fragili, non dobbiamo non farla sentire, la sentiamo adesso. Piccole Fragili, 1975. Non mi ricordo, sì, più o meno. Sì. Però prima ci fermiamo un attimo. Ok. Va bene. Spot. La libreria editrice Vaticana, con le proprie pubblicazioni, incontra il Triveneto a Pordenone Legge, dal 15 al 19 settembre. Non perdete l'appuntamento. Le pubblicazioni della libreria editrice Vaticana e l'Osservatore Romano saranno presenti nello stand Una Piazza di Libri, a Pordenone, in piazzale 20 settembre. L'evento è sponsorizzato da Banca Popolare di Verona, Blue Energy, Italiana Membrane, SCM, Zanussi, Pittarello, MGM, Latterie Friulane, Mondi, Bibione Terme, Graffi Studio, GSM, Sanicap, Euro 92. Per informazioni www.euro-eventi.com. Radio Sera. Blu Radio Sera. Non dai modo di trovarti mai sincera. Magari hai voglia e dici no. Quanti bagni mozzafiato insieme, poi di sera. Vicino, vicino a me, premi un po'. Non cercare di negare che stasera magari se insisto io ti avrò. Così piccola e fragile mi sembri tu e sto sbagliando di più. Così piccola e accanto a me e fragile e, ma in fondo sei molto più forte di me. L'apparenza gioca contro me, lo vedo. Figurati se ci stai tu con me. Non sei cosa che può diventarmi davvero. Però se ci filo dietro te, così piccola e fragile mi sembri tu e sto sbagliando di più. Così piccola accanto a me e fragile, ma in fondo sei molto più forte di me. E con la voce che hai sensazioni mi dai, mi innamoro. Fragile sei tu. Sottovoce tu mi esponi i tuoi problemi, poi ridi e ti neghi a me, mentre io ho bisogno delle fresche mani, tu ci credi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Vabbè, se non l'avete ancora capito, siamo insieme ad un certo Giampiero Anelli, in arte Druppi. Maurizio. Druppi, ci sei? Ci sono. Perfetto. Siamo quasi agli sgoccioli, ragazzi. Come si fa qua? Siamo quasi agli sgoccioli dell'intervista. Questa era un'anima blues, assolutamente. Molto nera questo pezzo qua, secondo me. Cosa dici? Sì. Se poi sentivi il provino fatto in inglese maccheronico, sembrava un pezzo proprio nero, black. Ah, bellissimo. Sì. Tu hai fatto tanti successi, tanti dischi che sono entrati in classifica in Italia e anche negli altri paesi. Un bel po' di pezzi con sotto sotto il blues veniva sempre fuori in ogni caso. Sempre. E viene fuori ancora adesso, chiaramente. Sì, anche negli ultimi album che abbiamo fatto. Cioè, anzi, io dall'82 che mi autoproduco con questa etichetta mia, che esiste come unico cantante solo me. E niente, la cosa più bella, oltre a essere libero di fare o non fare Sanremo o altre manifestazioni, insomma, è quella che canto, esco con il disco quando voglio e arrangio come voglio, insomma, godo, ecco. Poi alle volte indovino, alle volte sbaglio, come fa parte del gioco tutta la vita, insomma, però mi autoproduco in tutti i sensi, non solo a livello musicale. A proposito del disco, tu hai uscito un album, mi pare, fuori target, e l'hai definito il perché fuori target, adesso lo puoi spiegare? Sì, il titolo, no. Il titolo. Perché quei furboni di Radio Italia, dopo che li abbiamo aiutati a diventare quello che sono, dopo anni facevano un disco fatto bene, insomma, e non so cosa è cambiato, forse il direttore artistico che, insomma, mi hanno fatto sentire questo album, no, è fuori target. Bello, ho detto. Salvo che 4 mesi dopo abbiamo preso il disco d'oro per le 47.000 copie vendute in tutta Europa, che non sono più i milioni di una volta. Per carità, però era fuori target. Però. Ho visto nella tua discografia che quando è uscito il primo, dopo sentiamo un pezzo da fuori target chiaramente, quando è uscito la prima tua raccolta ha bruciato 250.000 copie, sì, in pochissimo tempo. Sì, nel giro di un mese o due, erano anni che volevano fare questa raccolta, io mi ero sempre un po' rifiutato. Perché? Ma perché ritengo che i dischi quando nascono devono avere una loro storia, il loro momento, e le raccolte mi sembrano un po', ma, del rimangare delle cose che poi non sono attuali. Però non ho la forza dei Beatles che può dire no, non si fa, è così. E allora poi venne un po' costretto e convinto, per fortuna, perché poi insomma vendiamo bene, insomma, è stato un bel successo, sì. Certamente è una cosa molto, molto positiva. Sì. Ho visto per tanti anni non l'abbiamo fatto. Ho visto nelle tue date, io e Sergio, hai fatto dei concerti di recente in Cecoslovacchia, mi pare, così? Sì, abbiamo fatto un tour di una decina di concerti in Cechia e in Slovacchia, che adesso si sono divisi un po', insomma. Sì, è vero. E perciò quest'estate l'ho preso un po' calma in Italia. Un po' più tranquillo. Adesso dove sei in Italia? Hai qualche data adesso da fare? Sì, adesso il 13 siamo vicino a Pescara, a Lanciano, e poi il 25 è un grosso concerto qua a Pavia, nella mia città, e siccome sono molto amico del professore, uno dei professori più importanti che fa il trapianto, il cuore, che opera qua a Pavia, e mi ha chiesto se potevo dargli una mano a raccogliere un po' di roba, un po' di fondi, che è iniziato così per gioco e sta diventando una cosa importante. Credo che parteciperà qualche amico, adesso vedremo, sto guardando in giro, e altrimenti sarà un concerto fatto da pavesi per i pavesi, con le band di Pavia, con tutti questi ragazzi giovani che sono. E poi il 2 mi ha chiamato Claudio Baglioni, che vado a Oscià, a Lampedusa. Ah, bene. Così vado a vedere Lampedusa. Solo ecco, non sei mai stato a Lampedusa? Sì. No, mai. Ho girato il mondo e non ho mai visto Lampedusa e tutti mi dicono che è straordinaria. Poi del sociale dobbiamo ricordare che nell'81 hai vinto anche il premio Buon Samaritano, cosa molto importante. Sì, ho fatto anche questo nella vita. c'erano due donne che stavano affogando e le ho salvate, insomma. Due. Sarebbero magari salvate da sole anche, però in quel momento non sembrava. Addirittura due? Sì, erano due. Tu eri, cioè, avevi fatto l'idraulico, quindi forza fisica ce l'hai sicuramente. Come, scusa? Avevi fatto l'idraulico, quindi la forza fisica. Sì, no, ma poi in quel periodo ero ancora un buon subacqueo, l'ho insegnato anche per qualche anno, perciò avevo una certa confidenza con l'acqua. Esattamente. Cosa facciamo? Cioè, possiamo continuare ancora qualche minuto per te? Scusa? Possiamo continuare ancora qualche minuto? Sì, c'è la pubblicità, stavo guardando la partita. Ah, come va? Non si può dire? Non si può dire, dai. Non lo so. Ma sì, si può dire. Certo. Sì. Stiamo vincendo 3-0. Ah, beh, ma allora, come? Non ci ma sono aspetta che c'è una TV che non ci credo. Non ci sono problemi di sorta. Stiamo giocando con i ragazzi dell'oratorio. Sì, ecco, questo è vero. Questo è vero. Benissimo, io vorrei far questo, abbiamo qualche minuto, vorrei sentire brevemente Regalami un sorriso, che è un grande pezzo secondo me. Cosa questo ne pensi? È un altro di quei pezzi che non volevo cantare sul E come mai? Perché me l'avevano proposto, dovevi sentire Provino, era una baccata tremenda, addirittura quasi un valzer, un tre quarti, una roba, testo ridicolo, insomma. Però mi piaceva questo titolo, Regalami un sorriso, bellissimo secondo me. Però insomma era brutta la canzone, non mi piaceva così com'era. Allora in quel periodo mi capitò di conoscere Tony Hymans, che non so se vi ricordate quel duo, i PhD. Certo. Ecco, Tony Hymans era lo spilungone alto 2 metri, tastierista, un genio musicale, una roba incredibile. Eravamo a Bari a fare Azzurro. E non so come successe, gli feci sentire questo Provino. Ah, good, good, bello, bello, ma bello un tubo, fa schifo. E lui fa, no, ma io lo farei così. E in 2 minuti risolse tutto il problema. Poi fu facile per me e Dorina finire il testo, cambiarlo. E allora Dorina è tua moglie, no? Sì, esatto. Allora a quel punto accettai addirittura di andare a Sanremo. Benissimo. L'ascoltiamo. Ok. Ok. Blu Radio Sera. Vivi mi sa che è arrivata anche la quarta rete dell'Italia in questo istante. Comunque siamo su Blu Radio Veneto, all'interno di Blu Radio Sera, questa sera con Druppi Maurizio. Purtroppo dobbiamo finire l'intervista. Io sarei rimasto qua un'ora a parlare con te, sicuramente, di tante cose siamo bellissime. Siamo alla seconda puntata. Dimmi. Un po' di tempo. Non ho capito. Faremo una seconda puntata. Certamente, faremo una seconda puntata, perché a me interessano tutti i risvolti, il discorso del provino che a te non piaceva, sono cose molto interessanti che la gente... Sì, sto scrivendo un libro, adesso un giorno o l'altro lo finirò. Ecco. Forse fra 20 anni, che ne so. No. Hai qualche concerto qui, oltre li hai già citati, ma qualche idea di venire qui dalle nostre parti a Padova? Veneto. Beh, in questo periodo non credo. Ormai penso che questa stagione sia finita, finirò con Pavia e poi mi fermerò, perché devo continuare a lavorare su questo album che ho lì nel cassetto, che ho già fatto provine e tutto, adesso devo decidermi andare a incidere. E poi Padova è un posto che amo, io sono nato una vita, non so se esiste ancora, se si può dire, si chiama Il Settimo Cielo, era su una collina ormai. Era un famoso albergo, un famoso chalet, cioè un locale. Prima si suonava. Esatto, ma adesso mi pare non esista più. No, ma l'ho già sentito. Sì, una volta era famoso. Ho già sentito dire, sì. Suonavamo tutte le sere, non una specie di night. Esatto, sì, hai ragione. Era proprio davano così. Delle martellate in testa come paga, però c'erano delle entrenesche che erano bellissime. questo... Sì, sì, sì, mi ricordo che avevamo preso in affitto una cascina e abbiamo vissuto lì. È stato carino, nei colli. Ecco, sì, sì, sì, sì. Era bello. Decisamente. Allora, abbiamo deciso di fare un'altra puntata. Più avanti. Faremo un'altra puntata, così parleremo di altre cose. Noi vorremmo terminare con un pezzo da fuori target. Io rinascerò. Sì, un pezzo dal tuo ultimo album, visto che ce n'è uno nel cassetto pronto, che uscirà sì, sicuramente. Sì. Ciao Druppi, alla prossima. Ciao. Grazie di tutto. Ci sentiamo alla prossima. Certamente, ciao. Grazie di tutto. Ciao, grazie. Ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. C'è qualcosa che mi sfugge, come una spina che mi punge. C'è qualcosa che non brilla, non fa nemmeno una scintilla. Ma cos'è che non va più bene in me? Che cos'è che non scivola e perché? Prima ero un prato dove sedevi innamorata e adesso cado come una foglia un po' bagnata. C'è qualcosa che mi rompe e non è la ruga nuova sulla fronte, ma troppe cose belle da lasciare, troppe strade nuove da imparare. Ma cos'è che non va più bene in me? Che cos'è che non scivola e perché? Prima ridevo e cantavo a squarciagola e adesso tremo se devo dire una parola. Ma io rinascerò, darò più acqua alle radici e su cose più felici mi attaccherò e quanti fiori metterò, rossi, più rossi che si può. E allora ti farò impazzire perché così ti piacerò.